Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Toglietemi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Questo è un paese in cui si fanno le leggi soltanto per fare il hit, poi chi se ne frega quali siano le conseguenze. Qualche anno fa è stata fatta una legge in cui ci dicevano che avrebbero abolito le province. Le province non sono state abolite, hanno abolito gli elettori e i finanziamenti alle province. Così capita che in Abruzzo, quella provincia che si doveva occupare di manutenzione della viabilità e che avrebbe potuto mettere a posto la viabilità per raggiungere l'hotel Rigopiano, aveva la turbina in manutenzione da diversi mesi, la turbina che avrebbe dovuto togliere la neve dalle strade, perché non c'erano soldi. Quando le leggi si fanno in questo paese, o si fanno seriamente oppure provocano danni e in alcuni casi anche morti. Di Maio non conosce evidentemente l'amministrazione, non conosce la legge sulle province. La legge sulle province è stata fatta esattamente perché le province si concentrassero su due o tre funzioni, non organizzassero le sagre paesane, ma si concentrassero su assistenza ai comuni, manutenzioni delle strade e delle scuole. Sta dicendo una cosa: chiamare in causa i morti con la riforma delle province è una cosa che io mi auguro sempre che i giovani politici abbiano il senso dello Stato. Purtroppo vedo che anche in questa occasione non l'hanno dimostrato. E allora, signori, alle 6:32 minuti, effettivamente, come dire, qui c'è terreno fertile, caro Di Maio, per la questione l'abolizione delle province. Ricordo che è in corso la 195esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Dall'inizio della legislatura, Così. Lo ricordiamo en passant. Però, devo dire che tirare in ballo i morti perché non si sono riformate le province effettivamente suona un po' esagerato. Bisogna sempre dare un peso alle parole, Saluto tutti gli amici che ci sono e sono già svegli con noi, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione, insieme a Peter Bescapè in regia, insieme alla Stefania, la voglio salutare subito, la Cavallaro, la nostra Stefania Cavallaro, direttamente da Studio Aperto, direttamente da Mediaset, direttamente da tutti i suoi programmi. Buongiorno Stefania. Buongiorno, direttamente buongiorno, da San Siro, dove l'Inter ha appena superato il Milan in classifica. Sei contenta? Sì, ma trovo abbastanza vergognosa la frase di Di Maio, veramente. Di Maio? Mamma mia, pelle d'oca, davvero. Ah, la pelle d'oca, e non per il freddo, Cara Stefania, ti devo presentare, ti voglio presentare il nostro scrittore preferito, il nostro grandissimo Mauro Corona. Buongiorno Corona. Buongiorno a voi tutti. Uno che con il territorio, con la terra, con la neve ha a che fare, uno che con la sua saggezza popolare secondo me ci può dire qualcosa che vale anche come come dire, che possa valere anche come insegnamento per, adesso non dico per la protezione civile, ma insomma uno che il territorio lo conosce, che questo territorio fragile che abbiamo un po', come dire, possiamo dire sventrato, caro Corona, nella nostra Italia un po' fragile, l'abbiamo un po' sventrato questo territorio. Sì, l'abbiamo sventrato se riguarda la cementificazione che poi dà origine alle esondazioni, brutta parola, dei fiumi, dei torrenti. In questo caso è la natura che le valanghe hanno sempre la loro strada. Da quando esiste il mondo le valanghe vanno di là. E guarda caso pare che questo albergo, pare, non lo so perché seguo un po', sia stato costruito addirittura su residui e su di valanghe. Quindi come si fa a costruire sullo sbocco? Ma è la logica stessa. Gli antichi non avevano mai costruito dove, perché studiavano i percorsi e lì sapevano che usciva la valanga, quindi lì la facevano o di qua o di là o più distante. Ma questa è una regola base. Quello che succede è la mancanza di memoria del comportamento della natura. La natura non si affida alle statistiche, è lì e cade lì. E quindi dicono, anche qui da noi è successo, dicono ma tanto ormai non nevica più, sono 100 anni che non scende più quella valanga. Esatto. Chi ha detto che non torna giù la valanga? Prima o poi, infatti è brutto da dire. Le faccio brevemente un piccolo esempio. Qui è stato ricostruito il paese nuovo a Erto, spazzato poi, molto danneggiato e spazzato metà dalla diga del Vajont, hanno fatto un paese nuovo. E dove l'hanno fatto? Le ultime case sono perfettamente sulla linea della valanga del Monte Borgà, che ai suoi tempi andava giù sul Greto del Vajont e si toccava con quella che scendeva dal Cerpen per chilometri. Ora hanno detto ma non nevica più così, quando tornerà quella valanga? E tornerà, perché è ciclica. Quelle case lassù, una decina, verranno spazzate via. E noi saremo ancora qui a dire ma chi è responsabile? Chi è? Esatto. È l'Italia, scrisse una volta Giorgio Bocca, l'Italia le malada. Poi vi dico l'ultima, le casette di legno tirate a sorte per i poveri disgraziati. Facciamo senza tanti appalti che poi vengono truccati, facciamo 1000 case di legno. No, quella è veramente incredibile. Facciamo così, apriamo... Mettiamo in deposito negli hangar 1000 case di legno. Guardate che il legno tagliato in luna giusta dura più del cemento. Le lasciamo lì negli hangar perché ed è anche buona se arriva il terremoto, perché il legno, tornerà. Quindi abbiamo 1000 case di legno pronte, no? Sono lì che tirano a sorte le casette, c'è da vergognarsi davvero. Allora, il tiro della sorte, effettivamente la riffa delle casette, apriamo il Parlamento, è un'altra cosa abbastanza incredibile. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè, gli sale sopra così, io vi voglio bene. Ma... Stefania, c'è la riffa delle casette, cioè non siamo neanche in grado di assicurare una casetta in legno a tutti i terremotati. La riffa, perché sono più... le persone terremotate delle case a disposizione, e a quel punto uno cosa si deve inventare? La lotteria, no? A quel punto poi fanno bene quelli che polemizzano. Io non, di solito non entro dentro queste polemiche, le trovo abbastanza strumentali e, come quella di prima, abbastanza vergognose. Però poi fanno bene quelli che si lamentano e dicono allora date le case agli immigrati e non date le case ai nostri che sono in mezzo alla strada o all'addiaccio quando c'è meno 10 sui bricchi e le zone appunto sono state terremotate. Però sai, ritornando al discorso di prima, responsabilità ce ne sono sempre tanto da tutte le parti. Dopodiché io continuo a sostenere che il buon Dio ogni tanto, ahimè, ci gioca brutti scherzi, ecco. E su quelli non puoi far niente, cioè possiamo guardare tutto quello che è fuori. Parli fuori come il sindaco di Amatrice che se la prende col signore. No, dai, su per quel che riguarda Rigopiano, io capisco che probabilmente con le carte bollate tutte a norma, con le risposte alle mail immediate, forse qualcosina si sarebbe potuto fare, ma c'è stata una coincidenza di fattori veramente, ma veramente estrema. Sì, quindi... veramente, veramente estrema, questo sì, però quindi Mauro Corona, quel padre ovviamente disperato che urla mi hanno ucciso il figlio, fa bene oppure è la disperazione che lo porta a dire? Cioè, perché come si fa ad arrivare a dire, da una serie magari di anche errori, ritardi, burocrazie sbagliate, arrivare a dire quelli non sono morti, sono stati uccisi quelli lì, possiamo dire? Ma così è stato l'impeto della disperazione, lo si può anche capire. Il problema è che come fai ad aspettare a pulire una strada quando c'è sopra 1,20 m di neve? E voglio capire questo, qui da noi che non siamo i più intelligenti, per carità, ma quando ci sono 3 dita di neve cominciano a passare i mezzi giorno e notte. Ora laggiù non avevano il mezzo, c'era una fresa ferma o senza nafta, non lo so, ma accidenti, pensiamo un po' meno. Il vice, il, Renzi 2 dovrebbe pensare ora un po' meno agli F-35 e fornire, al di là che siano le province, le regioni, questa scarica barile, bisogna fornire mezzi efficienti e tanti. Sì, il Renzi 2, Renzi 2 chi? Il Renzi 2 è Gentiloni. Ma... Sì, posso però dire una cosa, Alessandro? Sì, sì, dici. No, ascolta, secondo me è capitato proprio ieri di sentire una delle superstiti non rimaste sotto... sotto l'hotel Rigopiano, ma di quelle che sono andate via la mattina prima. Allora lei è partita, si chiama Marisa Basilavecchia, lei è partita col marito alle 11:30 del mattino, sono venuti a prenderla, praticamente è passato lo spazzaneve, gli ha fatto strada, loro avevano una Jeep, una 4x4, sì, e sono scesi lentamente ma senza grossi ostacoli, nonostante lei stesse dicesse noi siamo andati via perché abbiamo visto che stava veramente nevicando in maniera impressionante e la neve attaccava in continuazione. Bisogna pulirla. Ma quanto ci metti a pulirla? No, c'è il 30 spazzaneve per pulire una strada. Corona se ne intende di neve. Intendo, bisogna pulirla. Non c'è nessuna neve che in 10 minuti fa un metro. Bisogna passare di continuo. Questo però loro dicono di no. Quelli che erano nell'albergo che attaccavano centimetri e centimetri di neve. No, i superstiti. Non mi farà arrabbiare, Mauro. Sono Fandonia. La neve si può pulire anche se viene giù a rotta di collo. Ho capito, ci vogliono i mezzi, però se le turbine sono ferme. Comprare gli F-35, io non faccio polemiche, analizzo dei fatti, non mi interessa far polemiche. Comprino mezzi e sai, siamo impreparati di fronte. Sentivo la vice papa della protezione civile, non dimentichiamoci, col dito inquisitore puntava, che siamo di fronte a un evento eccezionale, è proprio per quello che è nata la protezione civile. Le cose semplici le risolvono chiunque. Di fronte a un evento eccezionale ci vorrebbe una protezione civile che interviene. Senta qui Gentiloni, Corona, sentite Gentiloni. Renzi, adesso voglio capire perché lo chiama Renzi 2, Gentiloni. Noi lavoriamo come se dovessimo lavorare molto a lungo, ma ci rimettiamo alle decisioni del Parlamento. Vabbè, insomma, lavoriamo come se dovessimo lavorare a lungo. Chi sono arrivati primi lì? L'ero io, il soccorso alpino, e quello non danno fondi. Con gli sci sì, sono arrivati. Il soccorso alpino anche qui da noi è sempre carente di fondi, non gli danno quasi nulla. Questo per dire che cosa? Che poi ci siamo arrangiati all'italiana, cioè non c'è stato un sistema efficiente, ci siamo arrangiati all'italiana. Certo, c'è da dire che oggi sui giornali esce anche questa notizia. Da tre giorni era stato dato l'allarme sia rischio slavina e soprattutto nevicata. Tre giorni. Questo sì lo trovo vergognoso. Ragazzi, ma tra un po' si scopre che avevano lanciato, adesso faccio un paradosso, avevano lanciato l'allarme a Ferragosto. I bollettini meteorologici che arrivano al mare a Jesolo a Ferragosto, esatto, vuoi che non arrivino in montagna in una situazione di questo tipo? C'è stata una sottovalutazione quando da tre giorni si sapeva. Adesso io non è che dico che devi stare, invece Corona si può pulire ogni singola rigattiera. Ma metti che cresca quattro dita, si passa di continuo come fanno qui. Ma se non hanno i mezzi non possono usarli. Però Corona, c'è un'altra cosa, visto che ha citato il Vaillant. Nel giro di 24 ore c'era l'allarme Vaillant ed è scomparso l'allarme Vaillant. Sono queste buttate che servono ad arricchire le pagine dei giornali. L'effetto Vaillant è impossibile lì perché non c'è quella ripidezza. Guardato i programmi TV, non c'è quella ripidezza. Quindi uno svuotamento non può togliere la pressione alle sponde e farle franare. Io ci metterei la mano sul fuoco lì che non succede niente. Però potrebbe anche in teoria, ma non in quel caso lì. Se è troppo piano, cioè ci sono montagne molto molto, il Vaillant era verticale, il Monte Toc. Sì. Quindi però le dighe ci sono anche lì, se frano la diga non è il massimo, se dovesse se la diga dovrebbe rompersi, diciamo, il muro di cemento mediante ma è quello che sostenevano effettivamente di grado 7, invece loro sostenevano poi per questa paura di abbassare repentinamente il livello dell'acqua, e lì c'è stato l'idea di un effetto Vaillant, perché qui il TOC rimaneva su finché ebbe la pressione ai lati. Mm. Quando cominciarono a svuotare per paura, non ebbe più la pressione e partì di colpo. Sì. E temevano una cosa così anche lì, molto improbabile, perché non ci sono quelle ripidezze. In ogni caso, vedi, poi apri il giorno, l'allerta valanghe è diventato, Stefania, dal Corriere 3 giorni prima, l'allerta valanghe è già diventato 4 giorni prima. Vedi, andiamo avanti, adesso scopriremo che a novembre avevano detto che c'era. Però se tu guardi l'occhiello, dice da 3 a 4 giorni. Sì, esatto. Col sindaco, che poi queste cose all'italiana, il sindaco che già dice non ho mai ricevuto nessun allarme. E tu dici, porcaccia miseria, ma uno dei due dice una cazzata a questo punto, perché se uno dice che da 4 giorni c'era un allarme e dall'altro ti dice che da 4 giorni non ha ricevuto nessun allarme, uno dei due, sapete come la barzelletta dei due sull'isola, non vorrei fare nomi, ma uno dei due mi ha rubato il portafoglio. Cioè, insomma, non lo so, uno dei due mente in questo caso, uno dei due non ha controllato la mail, ecco, non lo so, ecco, che è ancora peggio. La mail, magari, porca miseria, non ho guardato la mail, c'era l'allarme neve da 4 giorni. Vabbè, andiamo al traffico, poi voglio chiedervi qualcosa di Trump, voglio chiedervi qualcosa della politica italiana, insomma, dai. Manda traffico. Ciao Milan, dai, che oggi sono in ferie sotto il bel piumone mentre i miei colleghi sono in strada con il camion. Forchielli aveva detto, ma tanto più di così siamo nella merda, guarda quello che ha detto Sgarbi, più nella merda di così con un elemento del genere. Buongiorno a tutti, io sto con Forchielli tutta la vita. Je ne suis pas Charlie, io non sono Charlie, siamo d'accordo, io sono d'accordo, quindi però aspetto il nicchiato di turno italiano, perché ci sarà qualche italiano che dirà invece no, hanno fatto bene perché la satira deve essere da guardare in faccia nessuna, deve far pensare e soprattutto indignare. Vabbè, Fiorello contro la vignetta di Charlie Hebdo, però io dico una cosa, io sempre non sono mai stato per queste campagne, io sono Pinco Pallino, guarda, non lo farei neanche per Stefania Cavallaro, non direi mai neanche io sono Stefania Cavallaro, no, scherzo. Non ho mai fatto questo tipo di campagne, io sono, però tutti quelli che hanno fatto io sono Charlie Hebdo quando andava bene, perché li hanno uccisi, cioè nel senso andava bene stare con loro. Adesso fanno una vignetta irriverente, come effettivamente è la satira, caro Fiorello, e adesso tutti scandalizzati, Charlie Hebdo, una vergogna, vabbè, dai, però vorrei capire cosa ne pensate di Trump, Mauro Corona, voglio capire cosa ne pensa di Trump. Prima un piccolo accenno al caso, volevo dire che di quel, oggi è capitato a quell'albergo lì, sì. Ma se vi porto su in Dolomiti non è solo quello costruito allo sbocco di valanghe. Io spero di no, preghiamo di no, ma ce ne sono migliaia di posti costruiti in luoghi non idonei. Ecco. Ma in l'Italia è così, eh. Poi dopo quando franano, cioè dovesse mai, e speriamo proprio di no, eruttare il Vesuvio. Ma non ci sono neanche i piani di evacuazione nella zona rossa dei comuni, ma è una strage, voglio dire. È una strage. È perché è stato costruito dove non si doveva costruire, però poi ci lamenteremo con la protezione civile, se mai dovesse cadere. Vabbè, comunque, Trump, cara Stefania, come si sta? Hai visto che subito ha cancellato un trattato con il Pacifico? Esatto, così. E vabbè, dai suoi segnali forti con le firme, un po' meno con i discorsi. Io non lo so, secondo me dobbiamo ancora stare a guardare, perché ho la sensazione che si stia molto tenendo in questo momento per cercare di di colpire poi quando meno ce l'aspetteremo. Sì, beh, già qualcosa però ha fatto, insomma, questo trattato, si dice il protezionista, Trump già ha cancellato un trattato. Pare che piaccia molto agli italiani dai sondaggi. 8 su 10, è vero, questa cosa è vera. Allora, Ilvo Diamante oggi su Repubblica scrive, caro Mauro Corona, che a 8 italiani su 10 piace l'uomo forte, dai tempi di Mussolini, sappiamo, no? L'uomo forte, quello risoluto. Se per forza, per l'uomo forte intendiamo quello pieno di soldi e che poi lo hanno anche votato, perché ognuno ha quello che si merita, quindi... C'è un libricino che consiglierei a tutti, l'anonimo ateniese, mi pare 226 avanti Cristo, la democrazia come violenza. Ci si lava la bocca di con democrazia, ma poi non la vogliamo. Questi qui, questo ha promesso, perché vale ancora il parlare alla pancia, alle paure della gente. Questo ha detto: non faccio più entrare nessuno, metto i muri di qua, metto di là. Ha tolto già la sanità, poverini, che chi non ha soldi adesso deve star fuori dai pronto soccorso. Cioè, la gente ha bisogno di questo perché vuole inconsciamente, tramite un capo, proteggere se stessa. Non si vede una visione lunga che coinvolga anche l'altro, quello che non ha possibilità, che non ha soldi. Ma io difendo il mio orticello. Perché uno vorrebbe allora questo? Perché c'è questa passione verso l'uomo forte, quello che poi magari... Perché la gente ha bisogno di un leader, la gente ha bisogno di una squadra di calcio cui tifare. Ovviamente con le debite distanze vale anche perché hanno bisogno di un capo. Ma guardate la storia, il passato. Siamo un po' pecore. Sì, ma c'è un libro di Roberto Gervaso che l'Italia paese di pecoroni. Ah, ecco, vedi, pecoroni, eccoli qua. Buongiorno pecoroni. Un po' è vero. Io sottoscrivo, Stefano, non so cosa ne pensi, ma io sottoscrivo. Ma io penso che sia ovvio e necessario. Nel senso che la gente ha bisogno di un leader, certo che ha bisogno di un leader, ma questo non vuol dire che il leader debba essere quello dei proclami, no, o debba però... essere quello che sfonda le barriere del sistema. No, però è vero, noi italiani siamo così, diciamo, chi voto adesso? Chi voto? Cioè nessuno dice mai quale idee voto, che ideali seguo, quale partito. No, chi voto? Segui chi l'uomo voto? E non il programma. Certo. Devo vedere un uomo, una donna, qualcuno che mi ispiri, perché sennò sono perso, sono perduto, non so cosa fare. Dice, quindi vuoi dirmi che buona parte degli italiani ha votato Beppe Grillo, il comico? Vabbè, ma è così, cioè, la gente votava o Renzi o contro Renzi, o Berlusconi o non Berlusconi, o Grillo o non Grillo. Non è che uno valuta. Quella però è sociopolitica, nel senso che ovviamente fa parte anche dell'immagine del partito identificare con una persona quello che è il programma. Secondo me gli italiani vanno anche proprio oltre, cioè vedono solo la persona del programma, cioè quello che ispira e basta. Comunque guarda qua sul Giorno a pagina 8, l'incubo, la valanga, il racconto scritto per il Giorno da Mauro Corona. Lo conosce Corona? Questo... Ah sì, me l'ha chiesto ieri, guardi. Gliel'ha pubblicato. Sì, no, sì, siccome non avevo tempo, gliel'ho dettato. Ah, gliel'ha detta? Come sì. A chi? Al dimafonista? Non so chi era, forse... comunque gliel'ho dettato, mi ricordavo... C'è ancora il dimafonista, comunque, è straordinario, sai Mauro Corona chi sono i dimafonisti, non... quelli che nei giornali, quei gli inviati, quando dettavano i pezzi al dimafonista. Che... Ma incredibile i nomi. Lei lo conosceva come, non so, Giorgio, gli ho detto quest'articolo. Sì, ma gliel'ho detto. Va bene, Mauro Corona, stiamo concludendo. Qua c'è Stefania Cavallaro, una straordinaria e bellissima donna, oltre che collega, giornalista. Ma lei, Corona, è sempre dell'idea che, com'è sul matrimonio, ogni tanto ci regala delle perle di saggezza? Parlo per esperienze personali, non mi permetterei mai di impicciare. Io, per me, lo abolirei per legge. Ognuno. No, dai. Ma fate quello, ma sposatevi anche tre volte. Io no, basta. Vabbè, basta. 16 anni di matrimonio. Signora, mi scusi, perché a me le persone che mi hanno detto ti amo mi hanno reso la vita un inferno. Quindi non voglio più sentire, preferisco amare che essere amato. C'è chi cerca l'inferno comunque. Sai chi se lo cerca l'inferno nell'amore? Ho capito, sono cercato sull'altare. Ma quante volte sei sposato, Corona? Una volta? No, una. Ma per carità, o sei un cretino, sì, ma proprio quel doppio cretino, no. No, va bene, una volta. E vabbè, Stefania, questa idea delle delle donne è abbastanza misogino, ma lo dice? Sì, sono misogino, però non ho mai fatto male rispettato. Ma istintivamente ho capito che la donna è più forte dell'uomo e ho visto uomini strisciare, anche uomini di Stato, anche uomini capaci. Abbiamo un caso in Italia di un uomo di Stato che, ecco, strisciare. E quindi sono misogino,